punto e a capo. Una settimana di attualità. Ladies and gentlemen, the Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2011 is to be divided in three equal parts between Ellen Johnson Sirleaf, Laima Bowie and Tawakkul Karman. L'avete sentito, il Nobel della Pace è stato assegnato ieri a due donne liberiane e una yemenita per il loro impegno per i diritti civili. Ne abbiamo parlato nei nostri GR24, benvenuti a Punto e a Capo, buongiorno da Anna Migliorati. E l'annuncio del premio Nobel per la pace non poteva non aprire il nostro appuntamento per ricostruire la settimana che andiamo concludendo, perché è stata la settimana dei premi Nobel. E allora cominciamo a ripercorrere da qui gli ultimi 7 giorni, dopo il premio per la pace e quello per la letteratura andato ad un poeta. Non succedeva dal 1995. Stefano Salis. Hans Bremer, oggi 80 anni, era da tempo in lista per il premio. Forse, anzi, era quello che aveva avuto negli ultimi decenni più candidature. Questo vincitore non è un poeta politico, non è esiliato, non contesta nessun regime, non denuncia un bel niente, non affronta l'attualità. Questo vincitore, insomma, è un poeta poeta che fa dell'equilibrismo linguistico, così ci dicono i suoi esegeti, la sua cifra, che svela l'umano e il misterioso grazie alla potenza della parola, che segue un maestro come T.S. Eliot nell'impervio e immortale territorio dell'azzardo linguistico, in cui il famoso correlativo oggettivo è un'emozione, una sensazione. E basti leggere l'accostamento di ossimori che rinnovano il nostro senso del reale per dimostrarlo, come fa Tranströmer in Poesia del silenzio, edito da Crocetti. Una bevanda effervescente in bicchieri vuoti, un altoparlante che diffonde silenzio, un sentiero che ricresce ad ogni passo, un libro che può essere letto solo al buio. Insomma, l'Accademia di Svezia ha scelto bene. Per una volta ha dato un Nobel per la letteratura, non per qualcos'altro. Cosa ci hanno riservato invece i Nobel scientifici? Ce lo racconta, per fare il punto di questa settimana, Federico Pedrocchi. Ciao Anna, direi di tralasciare i nomi, che sennò ci va via troppo tempo. I Nobel sono quelli della chimica, della medicina e dell'astrofisica. Ci sono degli aspetti sociologici, psicologici, umani molto interessanti in questi nomi, vediamoli rapidamente. Beh, uno un po' triste è quello della medicina, che ha premiato 3 personaggi molto importanti, hanno scoperto dei meccanismi fondamentali del nostro sistema immunitario che hanno dato enormi risultati. E Ralph Steinman però, insomma, certo, ha ricevuto il Nobel, ma 3 giorni prima era morto, era un caso morto. Assolutamente singolare. Quello della chimica è stato dato ai quasi cristalli. La cosa curiosa dal punto di vista di sociologia della ricerca e della scienza è che questo personaggio è stato praticamente considerato come uno che vendeva fuffa, roba falsa, per tantissimi anni. Poi improvvisamente invece si è scoperto che questi quasi cristalli, e c'è chi dice che in fondo tutti i cristalli sono quasi cristalli, hanno tutta una loro struttura simmetrica che però non si ripete, questa dei quasi cristalli. Beh, senti, forse sarai contento perché è uno dei casi in cui possiamo parlare di Nobel estremamente applicati, perché finisce nelle padelle della cucina, le antiaderenti. Allora questo è un bel dato. più pratico di così non si può, fa piacere, no, finisce da un sacco di altre parti. Quello dell'astronomia è singolare perché è stato dato a 3 persone che hanno fatto una grande competizione fra di loro per fare una grande ricerca dalla quale si potesse scoprire che l'universo si sta concentrando. E che cosa hanno trovato? Che si sta espandendo. Infatti a me viene anche da dire, ma perché gli diamo il premio Nobel? Loro hanno trovato l'opposto di quello che volevano. Perché forse si cambia anche idea. Eccola qua. Eccola lì. È così andata quest'anno. Grazie a Federico Pedrocchi. Punto e a capo. Europa wird auch hier mit einer sehr starken Stimme auftreten bei dem nächsten G20-Treffen, um zu sagen. Le parole della cancelliera tedesca Angela Merkel a Bruxelles, che state sentendo, simboleggiano in qualche modo la settimana economica sul fronte della crisi. La cancelliera tedesca ha benedetto lo sforzo a favore delle banche europee atteso dai mercati. La Germania ha detto è pronta a ricapitalizzare e serve al più presto una decisione a livello europeo. Ripartiamo da qui con Punto a Capo per fare il punto della settimana economica. Perché? Perché dopo il sì tedesco al piano salva stati è stato un altro sì della Germania, quello agli istituti di credito, agli aiuti agli istituti di credito a condizionare la svolta nella terapia europea anticrisi. Tant'è che la Banca Centrale Europea giovedì ha deciso di riaprire rubinetti della liquidità a favore delle banche. Annuncio arrivato dal presidente della BCE, Jean-Claude Trichet, nella riunione del Consiglio direttivo, non a caso in trasferta a Berlino. Svolta nella terapia anticrisi che ha condizionato i mercati, sentiamo Eleonora Micheli di Radiocor. Andamento a doppia faccia per i mercati nel corso della settimana, con gli indici che prima sono scivolati e poi hanno ripreso a correre. Il bilancio è stato alla fine positivo. Milano ha guadagnato il 4,6%, Parigi il 3,7%, Londra il 3,5% e Francoforte il 3,1%. Sarà l'inizio di una fase di recupero? Difficile fare previsioni, con le notizie e i colpi di scena che si susseguono, come quello di ieri a mercati chiusi che Fitch ha tagliato il giudizio sull'Italia e sulla Spagna. Se all'inizio della settimana gli investitori hanno di nuovo tremato per la Grecia, dopo che Atene ha ammesso che il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo 2011 sarà peggiore del previsto, nei giorni successivi le borse mondiali hanno iniziato a risalire la china, sulla scommessa che sia in arrivo un piano europeo salva banche. Piano a favore del quale si è espresso anche il cancelliere tedesco Angela Merkel, asserendo di essere già pronta a scendere in campo per la ricapitalizzazione degli istituti tedeschi in difficoltà. La speranza di un intervento sistemico a favore del comparto creditizio europeo, sebbene questo sia ancora tutto da fare, ha posto in secondo piano anche l'annuncio che Moody's ha declassato, e di ben 3 gradini, il giudizio sull'Italia, portandola da 2. Gli interventi della Fed e della BCE a sostegno dell'economia e il dato sul mercato del lavoro americano, con l'annuncio della creazione di 103.000 nuovi posti di lavoro, hanno poi favorito ancora gli ordini in acquisto sulle borse europee, nonostante però il tasso di disoccupazione USA continui a rimanere su livelli elevati, ovvero al 9,1%, e nonostante tra l'altro alcune società abbiano iniziato a fare profit warning, come la francese Vallourec o l'italiana Fondiaria Sai. E a Focus Economia in settimana è stato ospite Andrea Beltratti di Intesa San Paolo. No, è inconcepibile pensare che ci si trovi di fronte ad una nuova situazione di salvataggio di banche europee, che peraltro appunto come sappiamo in Italia non c'è mai stata, ma c'è stata in altri paesi, quindi è inconcepibile pensare che i soldi pubblici vengano di nuovo utilizzati per salvare le banche. Le banche meritano un ruolo speciale perché sono un canale importante di collegamento e di finanziamento all'economia reale, quindi per questo devono essere salvaguardate, perché sono veramente un anello essenziale, perché altrimenti le imprese non trovano finanziamenti, è difficile fare impieghi finanziari e così via. Dopodiché, se si conclude che è davvero necessario impiegare altri soldi pubblici per salvare alcune banche europee, beh, questo non può non comportare anche un cambiamento nella governance di queste banche. A questo punto, avendo una quota rilevante di capitale pubblico in questa ipotesi che stiamo analizzando, non possono certo continuare a comportarsi come si sono comportate precedentemente. Quindi bisogna tirare delle debite conclusioni sulla governance, sulle politiche di remunerazione e così via. E in attesa della riapertura delle borse, vedremo cosa succederà lunedì. Noi voltiamo pagina. Punto e a capo. Io ho detto lasciamo vivere anche al datore di lavoro il momento di difficoltà legato alla perdita della figliuola, della 14enne, ma nel contempo ho detto non si può criminalizzare quelle lavoratrici o quei lavoratori che per portare a casa un tozzo di pane, perché di quello si tratta, soggiacciono alle logiche di un lavoro nero che purtroppo è una piaga nazionale, non soltanto di questa città. Le parole del sindaco di Barletta Nicola Maffei lasciano intendere che dopo il crollo della palazzina lunedì pomeriggio e le 5 vittime in città e non solo, questa storia non è finita. Bisogna capire le cause del disastro e chi ha sbagliato, arrivare presto a risultati tangibili e reali, dicono i familiari delle vittime. Gli indagati sono 9, ma intanto noi ripercorriamo quello che è accaduto. Ieri il giorno del dolore, oggi al dolore si aggiungono le polemiche, perché quella di Barletta è una tragedia che ha detto vita di molti si poteva evitare. Di sciagura inaccettabile parla lo stesso capo dello Stato, che in una lettera indirizzata al sindaco chiede di accertare con rigore cause e responsabilità e invita anche a tenere sempre alta la guardia sulle condizioni di sicurezza degli edifici. Stesso monito arriva dal presidente del Senato, Schifani. E intanto la procura di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Per ora nessun nome è stato iscritto nel registro degli indagati. Al vaglio degli inquirenti le tante denunce arrivate al comune anche pochi giorni prima della tragedia sui rischi di staticità dell'edificio in seguito a lavori di demolizione di un rudere attiguo. Segnalazioni rimaste tutte inascoltate. La stessa procura conferma che controlli erano stati chiesti ripetutamente dai residenti insospettiti da crepe e scricchiolii. Intanto è confermato il bilancio delle vittime: 5 donne, 4 giovani operaie e la figlia 14enne dei proprietari del maglificio posto nello scantinato dello stabile crollato. Operaie che lavoravano in nero per sopravvivere, accusano alcuni parenti delle vittime. Prendevano 3,95 euro l'ora. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. E tutt'altro che conclusa anche un'altra vicenda. Dopo la soluzione di Amanda e Raffaele, torna ad essere un mistero da chiarire l'uccisione a Perugia della studentessa inglese Meredith Kircher 4 anni fa. Ma intanto questa settimana si sono incrociate, un po' per la beffa del destino, le vicende di due ragazze. Per entrambe, in modi e per motivi diversi, si sono riaperte le porte del carcere. Sono Amanda Knox, assolta per ora, dicevamo, dall'accusa di omicidio, e Erika Denardo, ve la ricorderete, la ragazza che 10 anni fa uccise madre e fratellino con una furia devastante. Entrambe sono state descritte in tribunale come donne capaci di portare ad uccidere i loro giovani fidanzati. Due storie, due destini. Cominciamo da Amanda. Amanda ringrazia e torna a casa. Raffaele dalla sua per ora non esce, ma può guardare il mare. Fuori resta la famiglia di Meredith, che invoca la verità, la procura che annuncia il ricorso e l'ex guardasigilli che attacca i magistrati. Ognuno per la sua strada, dopo la sentenza che ha ribaltato il verdetto sul delitto di Perugia. Asciugate le lacrime, sorride ora Amanda, che prima di partire ha lasciato una lettera. Per quanti mi hanno tenuto le mani, scrive. Per lei, la Venere di Seattle, l'incubo ora è finito, ma non l'iter della giustizia, a cui i PM perugini, tra cui Manuela Comodi, faranno ricorso. Per noi i colpevoli sono Rudy Guédé, Amanda Knox e Raffaele Sollecito. Ci sono stati errori e pressioni, rincara l'altro PM Mignini. È un processo purtroppo con una pressione mediatica inaccettabile, purtroppo una decisione quasi annunciata. We are still hopeful. Nella Cassazione confida ora anche la famiglia di Meredith, che con la sorella rinnova le speranze, ma si chiede chi ha ucciso insieme a Rudy Guédé, l'ivoriano valuta una revisione del processo, ma i tempi sono lunghi e se l'America festeggia la liberazione di Amanda, la Gran Bretagna, col primo ministro Cameron, si stringe intorno alla famiglia della vittima di un caso divenuto internazionale. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. TV e case di produzione sarebbero già pronte a versare milioni di dollari alla giovane americana per raccontarne la storia. Storia che fa discutere, come lo fece quella di Erika, che anche lei ha lasciato il carcere. 10 anni di galera e una laurea in filosofia, dopo le 97 coltellate con le quali nel febbraio del 2001 Erika Denardo ha massacrato sua madre e suo fratello di 12 anni, aiutata da colui che allora era il suo fidanzatino, Omar Favaro. La detenzione terminerà il 5 dicembre, ma da oggi Erika si trova già fuori le mura del carcere di Verziano, in provincia di Brescia, ospite di una comunità nella quale sconterà il suo fine pena. Già nel 2006 la ragazza aveva chiesto la libertà condizionale. Il giudice Sossi, ritenendo che non si fosse ravveduta, respinse l'istanza. Ora, ad aspettarla nella stessa casa dove si è svolto il massacro, troverà suo padre Francesco Denardo. L'uomo in questi 10 anni ha fatto visita alla figlia ogni mercoledì. Francesco Maesano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Voltiamo pagina, sono 100 invece i giorni che sono passati dalle ultime elezioni amministrative. Un test importante per alcuni sindaci simbolo. Italia in Controluce ci ha raccontato questa settimana i 100 giorni di Napoli. Io sono assolutamente soddisfatto di questi primi 100 giorni. Innanzitutto per il cambio di marcia politico in generale che abbiamo dato all'amministrazione. Ritmi forti, impegno, entusiasmo e determinazione in scelte anche difficili. Con pochi soldi, senza soldi stiamo cambiando la città. Eliminare il problema rifiuti, ridare il centro storico ai cittadini, puntando su turismo e su un ritrovato senso di legalità. È questa la ricetta messa in atto dalla giunta di Luigi De Magistris per rilanciare Napoli. Partiamo da cosa è stato fatto in questi primi 100 giorni attraverso le testimonianze dei cittadini di Napoli. Diciamo che proprio il cuore di Napoli è stato liberato, almeno fisicamente da auto. Ovviamente questo ci mette a pari Napoli con le altre città, grandi città europee che hanno i centri storici, zone pedonali. No, la mia impressione è positiva. Inizialmente ha fatto più cose diciamo di facciata, ma cose pure giuste, come ad esempio mettere, levare le auto blu, mettere le biciclette elettriche per gli assessori. Secondo me un'altra cosa molto ma molto importante è la costituzione dell'ABC, cioè dell'acqua bene pubblico, un consorzio pubblico a partecipazione del comune. L'acqua, diciamo, non viene più gestita da enti privati. Altro tema caldo e poi l'America's Cup. De Magistris sarebbe riuscito a portare due tappe preliminari della prestigiosa regata nelle acque campane a Bagnoli, ma per Gianni Lettieri, rappresentante del centrodestra e sfidante di De Magistris alle ultime comunali, il risalto mediatico dato alla giunta dall'aggiudicazione della regata non tiene conto del problema principale del comune: i soldi necessari per gestire l'evento. Noi ci siamo permessi il lusso di rispendere, anzi ci dovremmo, perché ancora certo se lo fanno, permettere il lusso di spendere 40 milioni di euro con la provincia, con la regione, col comune, tutto quello che vogliamo noi, far venire qui una regata e farla a Bagnoli. De Magistris però è fiducioso. Ci consentirà soprattutto di completare la bonifica a Bagnoli e di rilanciare un'area strategica della nostra città, che è Bagnoli, dove nel passato le amministrazioni hanno sostanzialmente fallito. Penso ai rifiuti, dove insomma siamo usciti dal tunnel e stiamo consolidando la definitiva uscita dall'emergenza con la differenziata e con la partenza delle navi verso l'estero. Punto e a capo. I suoi computer anche da spenti sono vivi, sono accesi. No, mi spiace, una persona che ha davvero cambiato un po' l'informatica, l'ha resa, diciamo così, più elegante. Ma era più l'uomo di tecnologia o anche un po' il genio, la figura di ispirazione? Ma a me ha sempre dato l'impressione di essere, diciamo così, una figura più umana rispetto che al classico genio del PC. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore, la vostra intuizione. In qualche modo loro sanno già cosa voi volete davvero diventare. Il discorso che pronunciò il 12 giugno 2005 all'Università californiana di Stanford è stato e sarà un appello simbolo ad essere protagonisti del proprio destino. Io sono ancora Anna Migliorati per ripercorrere insieme l'ultima settimana e parliamo ovviamente di Steve Jobs, il creatore della Apple, morto negli Stati Uniti. I suoi fans li avete sentiti anche al microfono del nostro Giacomo Segantini, lo hanno amato, riverito come un guru fino alla fine della malattia, del cancro che lo ha ucciso. La sua eredità è certo di quelle che vanno ben oltre questi ultimi 7 giorni. E allora vi facciamo risentire lo speciale che gli abbiamo dedicato a cura di Enrico Pagliarini. Con una foto in bianco e nero di Steve Jobs, la Apple ha annunciato sul proprio sito web la morte del suo cofondatore a 56 anni. Così come avrebbe fatto lo stesso Jobs, Tim Cook, che è l'attuale amministratore delegato dell'azienda, ha scritto una email ai dipendenti per annunciare questa triste notizia. Abbiamo perso un visionario e un genio creativo. Chi di noi ha avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare con Steve ha perso un caro amico e un mentore capace di dare ispirazione. Steve lascia una società che solo lui avrebbe potuto costruire, il suo spirito sarà per sempre alle fondamenta di Apple. Jobs era nato il 24 febbraio 1955 e i due genitori lo diedero in adozione a patto che i nuovi genitori gli avessero assicurato gli studi, ma lui dopo 6 mesi di università abbandonò per fondare la Apple il 1 aprile 1976 assieme al suo amico Steve Wozniak. Molte persone la notizia della morte di Steve Jobs l'hanno ricevuta sull'iPad o sull'iPhone. Un popolo intero, quello che lo aveva seguito sin dagli esordi di Apple, gli aveva riconosciuto il talento indiscusso del leader, della guida spirituale. un uomo ribelle, ostinato, che ha incarnato l'ideale americano, il sogno che non si spegne, costi quel che costi. Nato sotto una stella apparentemente sfortunata, Jobs venne adottato da due impiegati modesti che gli passarono una convinzione forte in se stesso. La vita di Jobs è già romanzo, con annessi molti aneddoti finti. Dicono abbia avuto una figlia naturale che non l'abbia mai riconosciuta. Alcuni colleghi in azienda pare lo odino ancora oggi, altri lo hanno amato alla follia. Poteva licenziarti in tronco o farti sentire un re se eri forte e creativo. Ma la gente amava le sue invenzioni. In questo momento, nonostante l'ora tarda, davanti all'Apple Store della Quinta Strada a New York aumenta la folla. In Cina 35 milioni di ragazzi hanno reso omaggio al cofondatore di Apple su Sina Weibo, il principale servizio di microblogging del paese. Mentre nell'Apple Store di Shanghai c'è la stessa situazione che a New York, tutti davanti al negozio con un fiore in mano. I capi di Stato, i segretari di partito, quasi tutti nel mondo stanno rilasciando dichiarazioni in merito alla sua morte. È morto perché aveva un cancro. La sua battaglia durava da tempo. Nel 2004 si era dovuto fermare, poi di nuovo nel 2009 e infine all'inizio dell'anno, prima di comunicare, lo scorso agosto, ad aziende e dipendenti le sue dimissioni. Oggi il suo discorso alla Stanford University del 2005 racconta tante cose di quest'uomo che il presidente degli Stati Uniti Obama ha definito il più grande innovatore d'America. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco cosa diceva Steve Jobs agli studenti della Stanford University, una ventina di chilometri da Cupertino in California, dove abitava e dove ha sede la Apple. Era il 14 giugno 2005. You can't connect the dots looking forward. Non potete sperare di unire i puntini guardando avanti, potete farlo solo guardandovi alle spalle. Dovete aver fiducia che nel futuro i puntini che ora vi paiono senza senso possano in qualche modo unirsi. Dovete credere in qualcosa. Dio, il vostro karma, la vostra vita, il vostro destino, chiamatelo come volete. Credere che i puntini si uniranno da qualche parte lungo la strada, anche quando vi conducono fuori da un sentiero ben delineato, questo farà la differenza. And that will make all the difference. Sometimes life's gonna hit you in the head with a brick. Ogni tanto la vita ti colpisce sulla testa con un mattone. Non perdete la fiducia. Sono convinto che l'unica cosa che mi ha aiutato ad andare avanti sia stato l'amore per ciò che facevo. Dovete trovare le vostre passioni e questo è vero tanto per il lavoro quanto per chi amate. Il vostro lavoro occuperà una parte rilevante delle vostre vite e l'unico modo per essere davvero soddisfatti sarà fare un gran bel lavoro e l'unico modo di farlo è amando quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare, non fermatevi. And don't settle. As with all matters of the heart, come capita per le faccende di cuore, saprete di averlo trovato non appena ce l'avrete davanti. E come le grandi storie d'amore diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi continuate a cercare, non fermatevi. So keep looking, don't settle. No one wants to die. Nessuno vuole morire. Anche le persone che desiderano andare in paradiso non vogliono morire per andarci. E nonostante tutto, la morte è l'unica destinazione che noi tutti condividiamo. Nessuno è mai sfuggito. Questo perché è come dovrebbe essere. La morte è la migliore invenzione della vita. È l'agente di cambio della vita. Fa piazza pulita del vecchio per aprire la strada al nuovo. Ora come ora, il nuovo siete voi. Ma un giorno non troppo lontano da oggi, gradualmente diventerete il vecchio e sarete messi da parte. Mi dispiace essere così drammatico, ma è pressappoco la verità. Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete intrappolati nei dogmi che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore e, ancora più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. Loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario. Siate affamati, siate folli. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Jobs è stato un uomo magnetico capace di coinvolgere le persone dentro e fuori l'azienda. Così lo ricorda Antonio Dini, uno dei giornalisti italiani che meglio lo ha conosciuto e che meglio conosce il mondo Apple. E lo ricordo proprio così. Steve Jobs, l'uomo pubblico, è uno straordinario comunicatore, un uomo capace di salire sul palco di fronte a un pubblico di giornalisti, di sviluppatori e di ipnotizzarli letteralmente per un'ora, due ore, presentando loro in una maniera abbastanza unica, che ha fatto scuola non solo nella Silicon Valley ma in più in generale del mondo del business, innovazioni, invenzioni, nuovi prodotti, i famosi keynote di Steve Jobs. Lo ricordo anche come un uomo molto deciso, molto duro a tratti, capace di guidare con un polso assolutamente fermo un'azienda che lui aveva fondato, di cui aveva perso il controllo, di cui poi nel 97 lo ha recuperato per uno straordinario secondo atto. C'è chi dice che sulla parola invenzione dovrebbe prevalere la parola visione, cioè la capacità di Steve Jobs di comprendere come mettere insieme tante invenzioni per cambiare i mercati o addirittura crearne dei nuovi. Beh, certamente Steve Jobs non è un tecnico, è l'uomo della visione, questo fin dall'inizio, nel garage, quando fonda l'azienda, è un altro, quello che ha il cacciavite per fare le cose, si chiama Steve Wozniak. Jobs è quello che capisce a cosa queste innovazioni potranno servire e si inventa uno dei primissimi personal computer nel 76. È un uomo di visione, di strategia, ma è anche un uomo capace di giudicare quello che i tecnici riportano davanti e istintivamente capire se è elegante, se è funzionale, se è quello che deve andare avanti. Quindi sicuramente lui ha dato anche un contributo tecnico, ma non è questa la cosa importante, è stata la capacità di trasformare, quindi la visione, no? Trasformare la tecnologia in qualche cosa adatto per noi, per le persone qualunque. Che cosa hanno rappresentato in questi anni per i consumatori i prodotti Apple? Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto al sociologo dei consumi Mauro Ferraresi. Tra i tanti aspetti geniali di Steve Jobs, direi che forse quello più importante di tutti è stata la sua capacità di perseguire la semplicità e il divertimento, il tutto applicato all'elettronica di consumo che, non dimentichiamocelo, prima del suo sviluppo e prima che Apple desse questa sterzata, era costituita da prodotti che andavano bene agli ingegneri, che andavano bene a chi doveva e poteva fare calcoli, che non andavano bene per esempio a tutto il mondo artistico, a tutto il mondo di chi usa oggi invece il computer per fare pubblicità, per fare desktop publishing, per fare disegni. In questi ultimi anni, dall'iPod in avanti, si può dire, c'era chi osservava che i prodotti Apple prima erano riservati a una tribù in qualche modo elitaria di consumatori, poi invece si erano allargati al mass market e quindi avevano un po' tradito la loro mission. Lei cosa ne pensa? Beh, penso che è il destino di tutti i prodotti di successo. E lo si può dire dell'elettronica di consumo, così come lo si può dire di tanti altri settori merceologici e di tante altre marche e prodotti. Certo, è vero, probabilmente questo è accaduto. Ma io credo che se mettiamo sul piatto della bilancia il divertimento e la gioia del consumo anche musicale, che per esempio certi prodotti della Apple ci hanno dato, ma forse la bilancia pende a favore di questa mass marketizzazione del prodotto. Qualcosa forse ha perso in termini di identità, ma molto ha guadagnato in termini di godimento regalato ai consumatori. Il 24 agosto, quando Steve Jobs annunciò che avrebbe lasciato la guida dell'azienda nelle mani di Tim Cook, in molti cominciavano a domandarsi come sarebbe stata la Apple senza il suo fondatore. La prima volta che accadde non andò molto bene. Jobs uscì nel 1985 e al suo ritorno, 11 anni dopo, l'azienda era sull'orlo del fallimento. Al suo fianco c'era Cook, uomo silenzioso e grande lavoratore. In agosto Jobs lo ha indicato come l'erede. Saprà ora Tim Cook tracciare una nuova via per una nuova Apple, ridare la carica ai dipendenti per evitare che scappino a Facebook o a Google? In una email inviata ai dipendenti poche settimane fa, prometteva che Apple non cambierà, ma sarà proprio la capacità di adattarsi agli scenari futuri la sua vera sfida, continuando a fare come Jobs, think different, pensa in modo diverso. Non sarà facile. Per il momento però non c'è da preoccuparsi, la strada per i prossimi 2 anni è programmata. Nei cassetti c'è la 5ª versione dell'iPhone e la 3ª dell'iPad e a questi ha già pensato Jobs, così come ha pensato che per una nuova Apple servirà una nuova sede da costruire entro il 2015. Il 7 giugno di quest'anno è stato proprio lui ad illustrare il progetto al Consiglio Comunale di Cupertino. Punto e a capo. Già quando la ricchezza diventa, come dire, una riserva aurea di solo alcune persone nel mondo, già questo riservare a se stessi un margine di ricchezza che si parte da quanto serve per la sopravvivenza, sempre più, fino ad accumulare ricchezza che è togliere agli altri uno spazio vitale in certi casi. Sono le parole del regista Ermanno Olmi, che è stato ospite in settimana negli studi di Radio 24. Troppa ricchezza è un crimine, ha detto il regista in settimana, suscitando discussioni e polemiche. E con queste parole apriamo l'ultima parte di Punto e a Capo. Olmi è nelle sale italiane con Il villaggio di cartone, il film che racconta la storia di un prete cui viene chiusa la parrocchia e che si ritrova ad accogliere un gruppo di clandestini provenienti dall'Africa. Per Punto e Capo, Ermanno Olmi lo ha intervistato Marta Cagnola. Il rischio più grave che noi abbiamo nel nostro vivere è quello di crearci degli idoli di carta, anzi in questo caso di cartone. E allora dobbiamo liberarci da questi orpelli. Sono orpelli ingombranti, sia nelle chiese, sia nelle sedi dei grandi partiti storici o quello che vuoi tu, delle associazioni, sia nella nostra mente. Anche noi siamo appesantiti da orpelli inutili. È una cultura diventata anche lei di cartone. L'economia di cartone ormai la stiamo provando sulla nostra pelle. La dignità dei politici non è più neanche di cartone, perché ora non sta più insieme da nessuna parte. Ecco, però attenzione, nel fare l'elenco di ciò che vediamo di cartone, non dimentichiamoci di cominciare da noi, di vedere quanto siamo diventati di cartone. A volte la consuetudine persino nell'amare le persone care. Ogni mattina dovrebbe essere un risveglio per noi. Invece quante volte magari ci adattiamo ad essere quello che eravamo ieri e quindi diventiamo di cartone. O noi cambiamo il corso che abbiamo impresso la storia, per cui abbiamo deciso di scegliere quel cammino lì, o noi cambiamo o la storia ci cambierà. Cambierà noi. Perché crea le condizioni di una ribellione, non solo, diciamo, di forze che scendono nelle piazze e si ribellano con una, direi, virulenza, pensate a Londra, no? Ma c'è una ribellione della natura stessa. Che cos'è questa se non la ribellione della terra? Ossia la terra che ci dice state sbagliando, ce lo dice, ce lo urla, state sbagliando e se non la smettete vi faccio cambiare io. Punto e a capo. Che nasce da una banalissima combinazione. Pensavo che il titolo del mio brano venisse ritenuto un po' più romantico dopo le peripezie di Vasco Rossi, i clippini su Facebook, la guerra con un'enciclopedia. Ebbene, la rete questa settimana ha avuto un altro protagonista, Luca Carboni, lo sentite. Lui non frequenta i social network, ma i social network si sono mobilitati invece per lui. Le radio musicali non hanno trasmesso infatti il suo ultimo singolo, perché nel titolo contiene una parolaccia, quella che inizia con la C, ma vi diciamo solo questo, la lasciamo invece dire a lui col suo delizioso accento bolognese. Questa è una canzone molto ironica, anche se poi nel ritornello la parola caso fa da ponte verso invece la situazione più romantica e più seria della canzone, che è appunto il ritornello che racconta, cerca di fotografare l'attimo dell'innamoramento, della conversione che avviene in un istante, anche apparentemente casualmente. Non mi ero reso conto che potesse esserci su questa parola, visto che ci sono dei precedenti, minchia signor tenente a Sanremo tanti anni fa, insomma che questa parola provocasse certe situazioni editoriali, delle problematiche, probabilmente. Insomma l'ho presa un po' con leggerezza, però insomma adesso se ne è parlato, perché in realtà raccontando questa cosa, discutendo in privato con Lorenzo Giovanotti di questa cosa, ed essendo lui un twitterista, cosa che io non sono, se non per dare informazioni attraverso Twitter di cose tecniche, ma lui invece comunica affabilmente con tanti amici su Twitter, è partita questo racconto su Twitter, e quindi è venuta fuori una cosa anche bella, secondo me, perché tutti si sono hanno cominciato a tentare di trovare la soluzione, la parola alternativa a questa, o più volgare o meno volgare, o anche non in italiano, sono intervenuti spagnoli, altre lingue, insomma, e ognuno ha dato una sua soluzione, e quindi è venuto fuori un gioco ironico molto bello che è stato riportato anche dalla stampa, da altri siti, insomma, si è mosso tutto velocemente senza nessuna gestione ufficiale. Tra l'altro è successo di domenica, l'ufficio stampa non c'era, è nato tutto spontaneamente, ecco, questo è una cosa anche bella. Lasciamo Luca Carboni, torniamo a parlare di cinema. Inizia la grande sfida al botteghino delle commedie, ormai ci siamo, genere che ha trionfato nella passata stagione, uscita massiccia per il Corale Ex 2, sequel del film di Fausto Brizzi, firmato questa volta dai fratelli Vanzina. Uno dei protagonisti è Paolo Ruffini. Dico questo lavoro, poi alla fine è un lavoro che bisogna anche amare. Visto che siamo a Radio 24, che è una radio di parole, mi viene in mente Cici Proietti, che ho avuto l'onore di incontrare in un pranzo, e mi ha detto: guarda, una delle cose più belle che c'è nella lingua inglese è il verbo che si usa per recitare, che è play. Play vuol dire recitare, ma anche giocare. Quando te hai modo di fare questo mestiere, hai modo di giocare con un compagno di giochi che ha ancora questa passione come Carlo Vanzina, allora è una grande fortuna. Poi ha detto a Fausto, ha detto: ma Fausto, ma secondo te questo secondo film? Ha detto: un film di Carlo Vanzina non si rifiuta mai. Nelle relazioni, visto che si leggono sui giornali, anche voi giustamente date tante notizie di crisi, di dissidi, di guerre, di politica sporca, quando c'è della pulizia e quando c'è della gente pulita, bella e pura, è bello sottolinearla, no? Punto e a capo. E prima di chiudere la settimana abbiamo giusto il tempo per un'ultima notizia. Che un imprenditore a 86 anni faccia un passo indietro è una notizia solo in Italia, ma tant'è. Bernardo Caprotti lascia la presidenza di Esselunga, lo ha annunciato il numero uno della catena della grande distribuzione senza rivelare il nome del successore. «C'è già, ma non lo dico», ha detto Caprotti, precisando però che manterrà un ruolo operativo, quindi le redini del gruppo. L'annuncio è arrivato ieri a sorpresa, a conferenza stampa già conclusa, a margine della presentazione del cortometraggio realizzato da Giuseppe Tornatore per Esselunga. «Con una sentenza che fa di me un ladro, do le dimissioni da presidente», ha detto Caprotti, facendo riferimento alla sentenza del Tribunale di Milano che 15 giorni fa lo ha condannato per concorrenza sleale ai danni di Coop Italia, in relazione a quanto scritto nel libro Falce e Carrello. «Spiace la definizione, perché vedete, concorrenza sleale è un po' come essere un ladro, essere tacciato di ladro non è una cosa che può far piacere». L'ultimo capitolo della guerra che da anni oppone Caprotti al gigante cooperativo numero uno della grande distribuzione in Italia, insomma, brucia ancora, ma non è tempo di deporre le armi. E il coup de théâtre delle dimissioni con annessa spiegazione davanti a una platea da grandi occasioni ne è la riprova. Il penultimo sassolino, del resto, dicono i maligni, era stata proprio la scelta di Tornatore, che in passato collaborò con Coop. Una committenza costata al regista la critica di aver tradito la sinistra. «Io quando faccio un film e metto in piedi una troupe, io non chiedo ai miei collaboratori a quale partito sono iscritti». Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E chiudiamo con questo la nostra settimana. Un grazie in regia a Roberto Scaltritti. Tra poco GR24 ci riporterà l'attualità di oggi. Intanto un saluto, una buona nuova settimana da Anna Migliorati. Punto e a capo torna puntuale tra 7 giorni.